Mix 24 di Giovanni Minoli. Il faccia a faccia. Gian Maria Grospietro, 72 anni, torinese, laurea in economia all'Università di Torino, dove ha insegnato. Nel 1997 presidente dell'IRI col compito di privatizzarne le controllate, nel 99 presidente dell'ENI per accompagnare la liberalizzazione del mercato italiano del gas e l'espansione del gruppo nella produzione di idrocarburi su scala mondiale. Dal 2002 al 2010 presidente di Atlantia del gruppo Benetton, condottiero di grandi aziende, banchiere, dal maggio del 2013 è presidente del consiglio di gestione di Intesa San Paolo. Ecco, presidente Grospietro, gli stress test hanno detto che il sistema bancario italiano è malato grave? No, hanno detto che le banche italiane hanno un problema che è venuto fuori proprio non con la verifica degli attivi, ma con lo stress. E cioè fanno credito essenzialmente a imprese italiane che in questo momento soffrono tantissimo. Però gli stress test favoriscono chi fa trading e non le banche che prestano soldi a imprese e cittadini. È così, è vero? In parte sì, la cosa è banale, si fa presto a scoprire che il signor Ferrero fa difficoltà a restituire il suo prestito, è molto più difficile valutare un derivato e quindi questa è stata la pecca. Ecco. Giovanni Bazzoli, dopo la pubblicazione degli stress test, però ha parlato di possibili fusioni tra le banche, è una cosa che riguarda voi? No, assolutamente. Chi se no? Essenzialmente candidate all'aggregazione sono le banche piccole che hanno delle deficienze di capitalizzazione propria. Gli economisti del Tesoro americano hanno individuato nell'eurozona il buco nero della crescita. Ci danno per spacciati in America? Spacciati no, però certamente l'Europa non sta contribuendo all'uscita della crisi mondiale. E il suo tasso di crescita è il più basso tra le grandi aree mondiali. E quindi gli americani sono molto preoccupati? Più che altro sono irritati, perché ciascuno dovrebbe fare la sua parte. Presidente Grospietro, in 10 anni il prodotto lordo mondiale è raddoppiato, ma le attività finanziarie sono triplicate. Vuol dire che siamo seduti su una bomba atomica di ricchezza di carta? C'è sempre un rischio di bolla quando ci sono tante ricchezze finanziarie in circolazione e questo rischio è diventato attuale nel 2007-2008. E lo è di nuovo? E di nuovo c'è questa possibilità e proprio perché l'Europa non sta uscendo dalla crisi. Quindi lei la vede, lo vede il rischio della bolla? È un rischio che viene attentamente monitorato e tenuto a bada, però è sempre presente. Senta, il totale dell'economia di carta è di 993 mila miliardi, di questi solo 238 sono legati all'economia reale. E allora gli altri sono lì per la bolla? La finanza si moltiplica su se stessa. Questo in parte rende i mercati molto liquidi, molto reattivi e quindi più in grado di fare il loro mestiere, ma aumentano i rischi, quindi dovrebbe aumentare anche la trasparenza e il grado di monitoraggio. Dovrebbe? Vuol dire che capita o no? Capita solo per una parte delle attività finanziarie, cioè quelle che sono gestite dalle banche. È cresciuto moltissimo il cosiddetto shadow banking, cioè la banca ombra, che sono gli hedge fund e gli altri operatori finanziari che non sono regolati e non sono trasparenti. Ecco, ma quando è che le banche hanno smesso in qualche modo di fare il loro lavoro per lanciarsi appunto nell'economia dei derivati e nell'economia di carta? Inizialmente, verso la fine degli anni 90, questa attività ha cominciato a crescere, ha avuto l'esplosione nel primo decennio di questo secolo. I motivi sono tanti e sono legati essenzialmente agli squilibri essenzialmente della finanza americana, sia quella pubblica che quella privata. E questo però ha creato una bolla mondiale che poi è esplosa nel 2007. E che poi paghiamo tutti. Senta, ma perché si fa meno fatica a fare quell'economia, l'economia di carta, e si guadagna di più anche per quello? Beh, certamente con l'economia di carta si possono moltiplicare le iniziative a parità all'infinito di capitale posseduto. E quindi questo aumenta moltissimo. È una grande tentazione, diciamo. Bravo. È una grande tentazione che è accompagnata da un grande rischio. La redditività si vede, il rischio no. Presidente Grospietro, dal 4 novembre la vigilanza sulle grandi banche è stata assunta dalla BCE. Vuol dire che possiamo stare un pochino più tranquilli? Certamente, proprio perché? perché la BCE è più in grado, avendo una visione complessiva dell'attività dell'area euro, monitorare queste attività finanziarie di cui stavamo parlando, e soprattutto perché in questo modo l'attività di monitoraggio viene svolta con lo stesso criterio per tutti i paesi aderenti. Presidente Grospetto, in caso di banche in difficoltà, saranno chiamati a rispondere prima i soci, poi gli obbligazionisti, poi i depositari oltre i 100.000 euro. Insomma, i correntisti un po' ammazziati e cornuti. I correntisti fino a 100.000 euro sono assolutamente garantiti. No, parliamo degli altri. Quelli sopra i 100.000 euro non corrono praticamente nessun rischio se scelgono bene la loro banca. Ecco, ma è una scelta in qualche modo contro le piccole banche a favore delle grandi, questa? Si può dire, penso di sì. Non è la dimensione che conta, è la robustezza finanziaria della banca. Ecco, quindi è una scelta contro le banche mal gestite. Mal gestite. Però dopo le banche fallite a Cipro, i prelievi forzosi sul risparmio diventeranno l'incubo per il futuro, del futuro? Le banche fallite a Cipro erano banche che trafficavano in attività che andavano ben oltre l'isola di Cipro e che avevano degli agganci con dei movimenti internazionali. Quindi che quei depositanti in qualche modo abbiano pagato, credo che non dovrebbe essere rimpianto. Le banche italiane non fanno di quelle attività. Cioè i correntisti italiani non si devono preoccupare tanto? Assolutamente. Vabbè, non può dire il contrario. Senta, la Costituzione però dice: la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio. Tutela, insomma. Guardi, per quanto riguarda il risparmio affidato alle banche, mai nessuno ha perso niente in Italia. Anche quando ci sono. E nessuno perderà? E nessuno perderà. Quando ci sono delle banche in difficoltà, il sistema interviene, i clienti delle banche sono tenuti completamente indenni. Questo naturalmente non deve valere per i soci delle banche. Ecco, il grande capitale finanziario adesso sembra in attesa di abbuffarsi con un'altra tornata di privatizzazione. Si stanno fregando le mani? Se le privatizzazioni sono ben fatte, gli oggetti possono essere interessanti per gli investitori internazionali. Diplomatico, molto. Cioè sì, si stanno un po' fregando le mani. Ma non in tutti i casi. Ci sono tanti esempi. Enel, Post. Eni e Enel, Post sono ottime aziende. Ci sono tanti altri casi che non voglio citare, in cui l'ente pubblico vorrebbe vendere ma nessuno intende comprare. Non me lo dice? Ma basta guardare per esempio le municipalizzate, che non sono ben gestite. Vanno chiuse? No, andrebbero riformate. Chi tenta di privatizzarle in genere non ha la possibilità di promettere che si potranno riformare, quindi nessuno le compra. Senta, ma lei è stato il presidente dell'IRI delle privatizzazioni. Viste adesso, le rifarebbe nello stesso modo? Allora le privatizzazioni vennero fatte con l'obiettivo di fare cassa, perché era assolutamente per entrare nell'euro. Vabbè, però. Quindi tutti sanno che quando si è costretti a vendere in fretta non si vende bene. Alcune privatizzazioni vennero fatte benissimo. Mi dica quelle fatte male. Io potrei parlare di privatizzazioni che non sono state fatte dall'IRI, di cui mi occupavo io. Per esempio quelle fatte prima, quelle delle banche, oppure quelle non fatte dall'IRI, come quella di Telecom, che fu fatta direttamente dal Tesoro. E fu fatta male. In quel caso si sbagliò la scelta del... Sì, dica un bel sì, che è stata fatta male. Senta, e quelle fatte dall'IRI tutte buone, anche autostrade? Guardi, autostrade la conosco bene. Sono stato presidente. Prima della privatizzazione Autostrade faceva pochi investimenti e le tariffe crescevano ogni anno più dell'inflazione. Dopo la privatizzazione gli investimenti sono triplicati, le tariffe sono salite meno dell'inflazione e soprattutto la società ha investito... Sono anche garantite, no? Le tariffe. Lo erano anche prima. Quindi il punto è... Il rischio d'impresa dov'è lì? Non c'era né prima né dopo. Ah, non c'è neanche adesso, rischio di impresa, l'autostrada è zero. Senta, Presidente Grospietro, ma con la crisi del manifatturiero che c'è oggi, si parla però di un'ipotesi di un intervento pubblico nell'economia, non dico una nuova IRI, ma più o meno. Lei è d'accordo o no? Ne sente, ne vede il bisogno o no? Certamente non con la formula IRI che abbiamo conosciuto negli ultimi anni del secolo scorso. Certo, ma con che formula, per esempio? Politica industriale, sì. Lo fanno anche gli Stati Uniti, per esempio. Cassa depositi prestiti che faccia quella funzione? Non è tanto importante quale strumento, l'obiettivo deve essere però chiaro. Quando, la politica, per esempio, industriale. Obama ha deciso che voleva salvare l'industria automobilistica, l'ha salvata, ha prestato dei soldi, li ha riavuti indietro e ha creato... Quindi non è un'epoca definitivamente tramontata, ma bisogna ripensarla. Bisogna ripensarla e soprattutto va pensata in un'ottica di tutela non solo dei posti di lavoro, ma anche del contribuente. Altrimenti si difendono dei posti di lavoro a spese dei contribuenti, cioè qualcuno paga per i posti di lavoro degli altri. Ecco, Presidente Crosetto, lei ha detto che si dovrebbe attuare una politica monetaria che attenui la sopravvivenza dell'euro. Cosa vuol dire? La sopravvalutazione. Sì, la sopravvalutazione, scusi. E che l'euro aveva un cambio eccessivamente elevato, quando l'ho detto, si è cominciata questo movimento. Quindi abbiamo accettato un cambio troppo alto fin dall'inizio. No, all'inizio il cambio non era così alto. Addirittura quasi 1-2, sì. E poi è arrivato il nostro dalla lira, sì, dice, la lira, sì. Va bene, abbiamo accettato un cambio alto, non c'era altra possibilità, però quello che è sopravvalutato non è l'euro rispetto alla lira, è l'euro rispetto al dollaro, certo, rispetto alle altre monete mondiali. Ma quando lei parla di una svalutazione del bisogno, della necessità di una svalutazione competitiva, parla di questo? Sì, esattamente. L'euro è sopravvalutato rispetto alle altre monete mondiali a causa della politica monetaria che si fa in Europa. E ci sarà questa svalutazione competitiva, secondo lei? È partita, perché noi eravamo arrivati a superare 1,40 rispetto al dollaro, adesso siamo a 1,25, quindi c'è una correzione importante, c'è già stata. Ecco, ma si parla, Presidente Crosetto, di un euro a due velocità, uno per la Germania e i suoi satelliti e uno per i paesi del Sud Europa. Ha senso? Non è compatibile con i trattati esistenti, quindi uno può immaginare qualunque cosa, ma poi bisogna poi vedere come si attua. Senta, però l'ipotesi, si parla dell'ipotesi della Germania che sia lei a abbandonare l'euro. Fantafinanza? Sì, fantafinanza, perché anche per questa evoluzione immaginata non si sa come potrebbe avvenire. Ecco, però il professor Giuseppe Guarino dice che il trattato di Maastricht non è mai stato applicato e che a livello europeo, con l'imposizione del fiscal compact, c'è stato un golpe. Lei è d'accordo? Ho letto questo articolo di Guarino, ho trovato molto interessante, è scritto da un giurista, quindi io non sono giurista, non so se quello che lui immagina, e cioè che i trattati potevano essere interpretati in modo diverso, ha delle basi giuridiche, immagino di sì. Certamente. Però quello che conta è che l'attuale interpretazione dell'euro è stata accettata da tutti i governi, di fatto. Quindi vabbè, nessuno però ha messo chi in non discussione. C'era allora potrebbe rottamarla questa Europa e rifarsi al trattato di Maastricht, quello autentico. Io non credo che in campo di politica internazionale si possa ritornare indietro senza l'assenso degli altri. Senta, lei però ha detto che Bruxelles ha attuato una politica quasi oscurantista, contraria ai più elementari principi di teoria economica. Non sarà quello che dice Guarino, ma gli assomiglia dal suo punto di vista. Il mio è un punto di vista in questo caso di economista, esatto, il quale ritiene che soprattutto durante l'ultimo secolo e soprattutto dopo la grande depressione degli anni 30 la teoria economica ha fatto dei grossi progressi e ha trovato degli strumenti per rimediare, insomma, le crisi. E qui invece in Europa siamo rimasti gli strumenti di prima, eh? Questo vuol più dire. O meno sì, più o meno sì, o perlomeno non stiamo adoperando tutti gli strumenti, non stiamo adoperando gli strumenti che le altre grandi aree monetarie stanno usando, quindi cioè quando il dollaro, si, lo yen e la sterlina. E quindi quando si dice che è un'Europa dei burocrati, fatta da burocrati, gestita da burocrati, non sarà vero, ma gli assomiglia un po'. Ma questi burocrati hanno alle spalle dei politici che li costringono. Che fanno anche i loro interessi. Sì. Va bene. Senta, Rupert Murdoch però dice... Fortuna che l'Inghilterra non è nell'euro e viva per questo, è vero? Credo di sì, credo che abbia ragione. Vede che però ci siamo. Corrado Passera, l'ex amministratore delegato di Intesa San Paolo, la sua banca di oggi, ha detto, senta qui cosa ha detto. Dottor Passera, lei ha detto, se la crisi finanziaria fosse stata gestita come io ho gestito Banca Intesa, non ci sarebbe stata la crisi. Non è un po' megalomane? No, è un fatto. Facendo molto credito e poca finanza, non lasciandosi prendere dalle bolle finanziarie, il mondo non sarebbe finito dove è finito, e qui c'è sia il ruolo della banca sia anche il ruolo della nostra banca centrale rispetto a quelle di altre banche che hanno lasciato succedere il disastro. Lei che adesso sta lì ha visto che è vero, che ha fatto così? Non c'è dubbio. Banca Intesa, è stato bravo, ma anche quindi le altre banche italiane hanno sempre fatto credito alle imprese e non si sono impegnate nella finanza, sarebbero saltate altrimenti. Senta, Presidente Grospetto, il piano industriale di Intesa San Paolo per il triennio 2014-2017, proprio a proposito di investimenti nelle aziende, prevede 170 miliardi di finanziamenti all'economia reale. Quanti ne avete erogati già? Stiamo seguendo esattamente il piano, faremo anche ricorso ai finanziamenti della Banca Centrale Europea che vengono dati a basso tasso di interesse. Il problema naturalmente è quello delle imprese. Certo, cioè, quindi voi dite noi siamo pronti ma il cavallo non beve, è così? È importante che le imprese rivedano delle prospettive di profitto per i loro investimenti, altrimenti non li fanno. Sì, ma gli imprenditori italiani alla fine investono oppure no? Cioè sti soldi ve li chiedono o no? Li chiedono nella misura più o meno che noi avevamo previsto, quindi il piano dei 170 miliardi riteniamo che sarà effettivamente compiuto, ma noi potremmo anche prestare di più se ci fosse domanda, e anzi a noi piacerebbe fare di più perché questo è il nostro mestiere. Però le famiglie, uno che vuole comprare casa non riesce ad avere un mutuo? No, i mutui sono in crescita rispetto all'anno scorso, quindi questo è un segnale positivo. Naturalmente per avere il mutuo bisogna avere anche una capacità di ripagare le rate. Senta, le banche sono considerate il male, comunque siete, vi odiano tutti, nemiche dei cittadini. Dov'è che hanno sbagliato le banche? Io credo che ci sia perché stato... Perché è un sentimento popolare questo oggi. Ma io non sono d'accordo con lei su questo. No. Certamente c'è una parte della comunicazione che facilmente trova nelle banche il bersaglio. Però il fatto che le persone continuano a scegliere la banca per la gestione dei propri risparmi significa che alla fine capiscono che la banca è affidabile. Senta, oggi Intesa San Paolo è il gruppo bancario leader in Italia con 4.500 filiali, 11 milioni di clienti. Tra 10 anni quante saranno queste filiali? Quante ne resisteranno? Un numero non glielo so dire, ma certamente molte di meno. Molte di meno. Ecco, glielo chiedo perché Ennio Doris, che è il fondatore di Mediolanum, dice che dove oggi c'è una filiale ci sarà una gelateria. Senta qui. Internet è la prima rivoluzione tecnologica che mette in discussione un sistema distributivo delle banche basato sulle filiali nato più di 5 secoli fa. E quindi è internet che ti consente di fare le operazioni a casa tua che sta cambiando radicalmente il mondo bancario. Ma quello è l'incubo dei bancari, non io. È il problema del numero uno delle banche questo? Delle banche di tutto il mondo. Ha ragione Doris? Certamente. Quello che noi dobbiamo fare ai nostri clienti è non costringerli più a uscire di casa e andare in filiale, magari trovare il posto dove parcheggiare la macchina, per fare un'operazione che possono fare tranquillamente da casa loro. Ecco, ma Presidente Grospetto, ma un futuro dove il denaro sia esclusivamente elettronico è un futuro auspicabile? È un futuro possibile. È auspicabile? Ma è anche auspicabile perché il denaro elettronico non può essere rubato in modo violento. Vabbè, serve alle banche, ci guadagnano di più le banche con le loro commissioni, diciamo. Ma po' è vero, diciamolo pure. Le commissioni costano molto di meno di quello che costa a un cliente andare a prelevare il contante e usare il contante. Dipende, se c'ha la banca sotto casa non deve posteggiare. Non ci sono rischi di rapina. Vabbè, va bene, ok. Conviene alle banche. Un anno fa le diceva che Intesa San Paolo non è più una banca di sistema e fare i soci non è il vostro mestiere. Però siete ancora in Telecom, in RCS, in Alitalia. Fino a quando? Allora, banca di sistema non lo è nel senso di banca che supplisce a ciò che altri dovrebbero fare. Noi siamo una banca e vogliamo fare la banca e basta, però la vogliamo fare molto bene. Sappiamo che i nostri clienti sono l'insieme dell'economia italiana, quindi per noi è importante che l'economia italiana vada bene. E quindi questo vuol dire anche fare i soci? No, I soci lo devono fare coloro che... Quindi non lo farete più, uscirete, non diciamo, da Tele come RCS all'Italia? Sicuramente noi usciremo, e l'obiettivo è di uscire entro l'arco del piano, cioè entro il 2017. Possibilmente anche prima, ma possibilmente senza perderci. Comunque quello che è chiaro è che noi dobbiamo uscire senza provocare un trauma per le aziende partecipate. Il caso tipico che mi piace citare è quello di Alitalia. Noi usciremo da Alitalia dopo, però adesso che è arrivata Etihad. Senta, Presidente Grospieto, in questa situazione, dal 2009 a oggi il 10% delle operazioni commerciali delle imprese cinesi in Europa è avvenuto in Italia. È un bene, Ma la Cina si avvia a diventare la più grande economia del mondo, entro 10 anni lo sarà. Quindi è un bene, che abbia stima e che valuti l'Italia come un posto in cui conviene investire. E infatti in borsa, in Piazza Affari, hanno investito finora 5 miliardi i cinesi. Quindi vuol dire che, malgrado tutto, sono interessati alle attività italiane. Siamo interessanti ed è molto interessante per noi essere interessanti per loro, appunto. Perché sono un mercato in rapidissima crescita, un mercato estremamente interessante che è molto attratto dai nostri prodotti, quindi va benissimo. L'importante è che noi sappiamo gestire questo loro interesse. Che vuol dire? Vuol dire che i loro investimenti è bene che siano fatti in direzioni che sono utili anche per il sistema sociale italiano. Ecco, ma questa legge di stabilità, secondo lei, Presidente, dà una mano all'economia del Paese oppure no? Sì. Perché? Perché è una legge non solo che è espansiva nel saldo algebrico delle sue componenti, ma soprattutto è la prima volta che con una legge di questo tipo si aggrediscono i problemi strutturali che stanno alla base del cattivo andamento. Cioè, quale vede i problemi aggrediti da questa legge di stabilità? Per esempio, lo spostamento di una parte del carico tributario dal lavoro, da coloro che lavorano verso coloro che consumano. Noi abbiamo bisogno di spingere la produzione e il lavoro. Sì, però produzione e lavoro senza consumo serve poco. Gli 80 euro serviranno a rilanciare i consumi oppure no? Servono sì, una spinta c'è già stata da parte di questi 80 euro. Non dimentichiamo che la legge di stabilità comporta l'alleggerimento di altre imposte. Quindi lei è ottimista con questa legge? Sono molto ottimista perché dal nostro punto di vista noi vediamo soprattutto le piccole e medie imprese che sarebbero pronte a ripartire, a fare degli investimenti se ci fosse una maggiore flessibilità. Quindi vede una disponibilità degli imprenditori italiani rispetto a questa ipotesi della legge di che offre la legge di stabilità? La vedo anche in direzione dei mercati internazionali. Queste imprese sono pronte ad aggredirli. Bisogna sgravarle un po' di costi e di ostacoli. Senta, Presidente, un'ultima domanda. Pensa che in primavera si voterà? Non ne ho la minima idea, ma spero di no. Mix 24. Titoli Faccia a Faccia. Allora, è un po' difficile perché è un uomo molto concreto, poi però ogni tanto ha dimenticato che la storia, diciamo, ha una sua reversibilità e ciclicità, tipo l'euro è irreversibile, no. La storia ha dimostrato che anche l'impero romano... Quindi... Vabbè, senza titolo, punto interrogativo. Allora, è un punto interrogativo, sì. E tu, Pietrangelo? Prendo dalla storia, il titolo che farei è questo: Torni Liri e tornerà l'Italia. No, scusa, ho un titolo, perdonami, perché è molto importante la cosa che ha detto su Murdoch. La scelta giusta è quella degli inglesi, alla fine. Che non sono entrati nell'euro. Sì. Pioggia leggera, imprechi pesanti, l'amico è molesto, l'amico è l'amico. Caviglia scoperta, denudate al freddo, cicchia di rotto, bicchiere che casca, bicchiere che rotto, moderazione. Allora, Pietrangelo, oggi venerdì? Allora, sì, venerdì comunque di lavoro, di movimento, piove e quindi... ci si mette rintanati negli ingressi della stazione della metropolitana, e lì rintanati negli ingressi delle stazioni della metropolitana l'orchestrina e il capobanda ad affrontare la pioggia leggera con imprechi pesanti. E poi caviglie scoperte, cicche, bicchieri rotti e la voglia di un valzer con lei. E Stefano Vergani, l'orchestrina Pontiroli e tutto un battere e levare di allegrie sotto le nuvole borbottanti, ed è appunto il capobanda. Lottatore finito, tuffo di testa, tuffo di pancia, tuffo di bomba, acqua che piange, il peso che affonda, moderazione. Caro Mario, le tue bolle lasciano il segno, come nel caso di Juncker. Hai visto? Adesso lo affrontiamo di nuovo. Senti, senti. Picking away the moments that make up a dull day. Fritter and waste. Ragazzi, che meraviglia. Questa è la musica classica della seconda metà del XX secolo, ricordate. I Pink Floyd, che mi pare abbiano una puntata speciale, no, oggi Giovanni? Così. Eh sì. Bene, allora, Time, e questa era Time perché, insomma, c'è anche da svegliarsi un po'. Ieri avevamo preannunciato che ci sarebbe stato un bel dibattito, diciamo così. Accidenti. Su alcuni file lussemburghesi. E la cosa, ovviamente, è esplosa. Ora, uno potrebbe dire, vabbè, ma Juncker chi? No, allora, di sicuro non è un burocrate, quindi lì un politico puro. Lì Renzi si sbagliava. È un politico puro. Devo dire che è anche un grosso esperto di utili e tasse altrui esportati a casa sua. Su questo è certamente molto competente. E insomma, il caso è talmente grande che si vedrà un bel match in Europa, mi sa. Si sul vedrà caso un, Juncker. Un grosso match. Juncker è lo stesso presidente. Posso che interrompere? Tutto, sono ma tutto questo tuo. Juncker, sì, non è quello che, se non ricordo male, venne celebrato, fotografato, televisato, cinemato, tutto descritto, soprattutto perché aveva fatto l'intemerata contro Marine Le Pen, quindi tutti lì col ditino, i piritolli, a dire che bravo questo Juncker. Ha intemerato contro Marine Le Pen. Ha già 8,5, Pietrangelo, vabbè. Ha intemerato anche contro Renzi, che in realtà aveva abbastanza ragione, devo dire. Vabbè, insomma, però, scontro. È lo stesso presidente della Commissione UE che dice che bisogna avere il rigore, l'austerità, l'armonizzazione fiscale, che però poi in Lussemburgo, diciamo, dà riparo, asilo fiscale alle imprese di tutto il mondo. Io lo voglio sapere, vorrei anche sapere da contribuente europeo, così, puro caso, come si concilia il suo ruolo di oggi con quello, appunto, che aveva ieri e che continua comunque ad avere, perché, voglio dire, non viene da Marte, viene dal Lussemburgo. E che cosa ha da dire Matteo Renzi in proposito, secondo me? Io credo che il Premier debba esprimersi, perché non è che Juncker si esprimerà, vedrai, è stato zitto. Io e così pure gli altri sarà partiti. Un grande scontro, ma non solo con Renzi. Altro punto, l'Italia è l'Italia fuori dall'Europa o il Lussemburgo di Juncker che fa pagare l'1% di tasse ad alcuni multinazionali che trovano riparo nel suo paese ad essere fuori dall'Europa? E può Juncker, infine, cari ascoltatori, restare al suo posto dopo tutta questa roba che abbiamo visto? Forse. La mia opinione è no. Si deve la verità è giusta, la verità funziona, la verità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. La verità di vita, di amore, di sapere, di denaro ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E questo era il grande Gorton, sempre, e con lui, lui abbiamo chiuso. E ne vuoi un'altra? Di bontà. È il giorno dei Pink Floyd, eh? Tutta così, oggi la puntata Learning to Fly. Solo per dire che Twitter vola in Cina, l'uccellino, no? Dei 140 caratteri. E solo che in Cina Twitter non c'è, perché i cinesi hanno un altro social network di di microblogging, chiamiamolo così, si chiama Weibo. La sfida però è aperta, perché Twitter comunque aprirà un suo centro di sviluppo a Hong Kong, una cosa molto molto grossa, anche per, diciamo, aprire partnership commerciali, pubblicità, eccetera. Poi si aprirà anche a Twitter la Cina, vedremo. Una cosa è certa, la sfida è molto interessante, perché Weibo ha 156 milioni di utenti attivi al mese e Twitter 284 milioni. Grande sfida in Oriente. Salamini! Quella specie di crocetta che il sindaco di Roma, Ignazio Marino, aveva una grande passione. Ma dove vai? Bellezza in bicicletta, così di fretta pedalando con ardore. Era una cosa incredibile, andava in giro per le strade dell'urbe con la bicicletta, i poveri vigili appresso a lui, e mostrava questa nuova era dove si sarebbe andati in bicicletta con le gambe tornite snelle, belle, belle come le sue belle gambe, e poi la pedonalizzazione e tutte le fissazioni. Oh, come è andata a finire? È andata a finire non solo che ha messo la sua panda gratis a lungo nel parcheggio del Senato e per fargliela togliere c'è voluta una mobilitazione, ma adesso se ne viene fuori questa storia di ben 8 multe. E la cifra sono 80 euro ciascuna, dunque 640 euro, 80 euro saranno quelle lì di Matteo Renzi, e quindi i vigili che non riuscivano a multarlo perché poi lui passava nella cosiddetta ZTL, che dovrebbe essere la zona traffico limitato, insomma non pagava i permessi. La sostanza qual è? Che c'è un illustre precedente che vi voglio fare ascoltare. Le motorizzate, il motorizzato nostro sindaco, prego. Basta, basta, silenzio! Cos'è questa cacofonia? Siete in contravvenzione tutti quanti per segni acustici molesti. Ma dove siamo? A Piedigrotta siamo. Ma che fa contravvenzione a noi? Affaccia quella che davanti al semaforo si mette rossetto. C'era il rosso. Ma adesso c'è verde. E secondo lei la signora col verde dovrebbe mettersi il verdetto? Ma guarda un po'. Marino, secondo me il verdetto se l'è messo, no. O lo mette o lo dice. Comunque sempre in zona verdetto sarà. Due mette. Mix 24. Canzoniere. La sua vertute cancide sansira, pregate il che mi laghi venir pui, ed io vi dico degli modi sui, cotanto intende quanto l'om sospira. 800 24 0024, il numero verde 349 238 6666, l'SMS. Mario, ancora una bolla. Sì. Allora, vabbè, è ancora sempre Pink Floyd, perché insomma oggi è la loro giornata. La loro giornata, e abbiamo appunto la puntata speciale dopo il nostro show, chiamiamolo così, il nostro teatrino. Ti piace Pietrangelo? Insomma, allora questa bolla sulla scia dei grandi Pink Floyd la facciamo tra genoma e Bibbia. Molto interessante. Il genoma, caro Minoli, chi te lo custodirà? Tu lo sai? No, non lo so. Google. Siamo messi bene. Perché? Siamo messi bene perché Google ha lanciato un'azienda che si chiama Google Genomics. E tutti quelli che avranno il genoma letto e custodito andranno da Google Genomics e se lo faranno custodire. E Google Genomics farà i soldi come? Ricerca, medicina nuova, sai cosa vuol dire? Confrontare il genoma di milioni di persone. Sono i big data applicati. Mario, tu che genetica. Sai tutto. Non so quasi niente. Sai tutto di purtroppo. Banche. No. Ci scrivono: un futuro dove ci sia solo moneta elettronica non conviene solo alle banche, ma soprattutto all'Italia. Si risolverebbero all'istante tre problemi: evasione, corruzione e criminalità, e il PIL italiano salirebbe. Lo dice il dottor Consolo. Io il dottor Consolo lo stimo molto, però gli dico anche un'altra cosa, che il denaro frusciante, in particolare il bigliettone verde in America, viene tutelato, ce le sono le transazioni elettroniche e c'è anche la moneta, perché la moneta è anche libertà, non tracciabilità, e non sempre bisogna essere, come dire, monitorati, per così dire. È finita la settimana, venerdì, ed è il momento della posta del cuore. Scriveteci a mix24@radio24.it se volete sentire le vostre lettere raccontate da Sara Tardelli. Abbassa d'apparello. Io non mi muovo, non mi muovo più di qui. Resto nel tuo letto per tutta l'eternità. Ci faccio le radici, i funghi, ma non mi muovo. Metti su un disco. Sì. Spogliati. Spogliati. Io ti guardo, io ti ammiro da qui. Vorrei essere percepita come una bambolona. E non voglio che tu sia una bambolona. Devi essere due persone, la santa e la peccatrice, la bibliotecaria e la spogliarellista. Da un lato devi respingere il dottorino con lucida indifferenza e dall'altro devi essere uno sconvolgente tornado di sesso. Famo strano. Cioè, che c'ha in mente? Perché non famo col vestito da spusa quando ci ricapita? Riflettici. Come si chiama tua sorella? Erza. Erza! Vabbè, entro io a questo punto con la nostra posta del cuore. E ci scrive un uomo. Ho ascoltato la lettera di Principessa per sempre 77. Ora, la moglie è dello stesso anno e nelle nostre discussioni mia madre è la malefica sovrana. Saranno coincidenze, ma il dubbio di essere il mammone in questione rimane. Allora vorrei rispondere. Carla, ti lamenti perché hai sposato la mia famiglia, ma pensa a me, che tutte le sere mi ritrovo mia madre nel letto. Tu eri una donna indipendente, allegra, vivace. Mi ritrovo invece una signora insoddisfatta, incattivita e rancorosa, che di mia madre ha persino la pettinatura. Con quel filo di perle che ti ha regalato sembri anche un po' mia nonna. Ti piacciono i fiori secchi, le cornici d'argento con le foto imbalsamate del matrimonio e quest'interno borghese che disprezzavi ti ha conquistato. Tu vuoi essere mia madre. Ma veniamo al punto, Carla. Come hai potuto sostituire le autoreggenti con i gambaletti? Il sesso, Carla, il sesso. Dov'è finito il sesso? Quella voglia di giocare che ci leggevamo negli occhi, non che sia solo colpa tua, certo, ma non credi che se la smettessi di comportarti come una madre, io smetterei di comportarmi come un figlio? Oppure in questa lotta tra regine non c'è spazio per nessun altro? Pietrangelo. Comandi. Ero sovrappensiero. Io ero distratto dal gambaletto. Il gambaletto ti ha sconvolto. Gli uomini. Allora, intanto iniziamo a capire un po' da dove partire. Cercano un po' di mamma nelle loro compagne o no? Allora, la questione è semplice. L'uomo deve essere uomo. E quando l'uomo è uomo, senza altri aggettivi, qualunque insoddisfatta diventa femmina. Hai capito? La sentenza. È sistemata. Ma ti ha sistemato? Mi ha sistemata, ma allora l'unica cosa, un'altra cosa che questa serve a me. In quale storia, secondo te, che ti viene in mente, si consuma il connubio perfetto della donna? Nell'estasi di Santa Teresa d'Avila. dove è perfetta la sintesi tra l'ascesi e la carnalità. Ah, beh, insomma, un esempio facile da... E i santi sono fatti apposta perché li dobbiamo seguire. No? Agli obiettivi. Modelli. Quindi veramente la santità allora è richiesta in una donna. Totalmente. Ma il gambaletto, scusa, io ho sempre il dubbio, ma il gambaletto? E il gambaletto è una sciagura dei tempi moderni. Io invece, che sono sempre molto concreta, a differenza vostra che siete dei grandi pensatori, consiglio a tutti e due... Come pensatori? Qui abbiamo dato una pennellata di sesso. Ammazza. Consiglio a tutti e due di guardarsi ieri, oggi e domani, perché secondo me quel momento lì, quello dello spogliarello di Sofia Loren, è strepitoso, perché tra loro c'è, secondo me, autoironia, complicità, erotismo e dolcezza. Vabbè, c'è dato la lezione per il weekend. Lui ride ed è scioccato come un matto in quella scena. È innamorato come un matto. Oggi, in anteprima, nelle radio di tutto il mondo esce l'ultimo disco dei Pink Floyd. Per questo ne abbiamo parlato durante la trasmissione. Subito dopo il giornale radio raccontiamo con Marina Milone la storia di questa band che ha rivoluzionato le sonorità del rock. So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail?